Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Il giovanissimo Petya Rostov, unitosi a Denisov e a Dolokhov, partecipa con loro a un'azione militare, di guerriglia, di resistenza, per liberare i russi che erano stati tratti prigionieri dai francesi, e in questa azione resta ucciso. Tra i prigionieri liberati c'è anche Pierre Bezukhov. È un uomo molto cambiato, molto diverso quello che Tolstoi ci presenta in questa situazione, segnato e maturato dall'esperienza della prigionia e dagli incontri fatti in quella situazione. E frattanto l'azione del romanzo si sposta a raccontare l'evolversi del lutto per la morte di Andrei nell'animo di Natasha e in quello della sorella Maria. Dopo la morte del principe Andrei, Natasha e la principessina Maria non osavano più guardare in volto la vita. Tutto, una carrozza che passava rapidamente per la strada, l'annunzio del pranzo, una domanda di una cameriera a proposito del vestito che bisognava preparare e, peggio ancora, una parola di condoglianza insincera o indifferente, irritava dolorosamente la ferita. Soltanto quando erano sole insieme non sentivano né offesa né dolore. Parlavano poco fra loro e tutte e due evitavano di menzionare qualsiasi cosa che avesse relazione col futuro e sfuggivano nei loro discorsi tutto ciò che potesse riferirsi al defunto. Sembrava loro che quanto avevano vissuto e sentito non si potesse esprimere con parole. Ma una piena assoluta tristezza è altrettanto impossibile come una piena assoluta gioia. La principessina Maria, per la sua posizione di unica e indipendente signora della propria sorte, di tutrice ed educatrice del nipote, fu la prima ad essere richiamata dalla vita fuori da quel mondo di tristezza nel quale aveva vissuto i primi 15 giorni. Aveva ricevuto lettere di parenti alle quali bisognava rispondere, la stanza nella quale aveva messo Nikolushka era umida ed egli aveva cominciato a tossire. La vita non si arrestava e bisognava vivere. Per quanto duro potesse essere per la principessina Maria, le cure della vita esigevano la sua partecipazione ed ella vi si assoggettò. Verificava i conti con Alpatic, si consigliava con Dessal intorno al nipote, dava ordini e faceva preparativi per il suo ritorno a Mosca. Natasha rimaneva sola. Se ne stava seduta nella sua camera, con le gambe in un angolo del divano, e rompendo o sgualcendo qualcosa fra le sue dita sottili e nervose, guardava con l'ostinato, immobile sguardo qualche oggetto su cui s'erano fermati i suoi occhi. Questa solitudine la consumava, la tormentava, ma le era necessaria. Le pareva di essere sempre lì lì per comprendere, per penetrare quello su cui, con una interrogazione così terribile e sproporzionata alle sue forze, ella teneva fisso il suo sguardo interiore. Alla fine di dicembre, Natasha se ne stava un giorno seduta con le gambe in un angolo del divano, vestita di lana nera, con la treccia negligentemente annodata a crocchia, magra e pallida, sgualcendo nervosamente i lembi della cintura, e guardava verso la porta. Guardava là, dove egli era andato, dall'altro versante della vita. E quel versante della vita, al quale prima non pensava mai, che prima le pareva così lontano, così irreale, ora le era prossimo e familiare, comprensibile più di questo versante della vita, nel quale tutto era deserto e distruzione o sofferenza e vergogna. Vedeva il suo viso, udiva la sua voce e ripeteva le parole di lui e le parole proprie dette a lui e tornava a provare tutto ciò che aveva provato allora. E nella sua immaginazione ella gli diceva tenere, amorose parole che avrebbe potuto dirgli allora e che gli diceva adesso. Ti amo, amo te, ti amo. Diceva, torcendosi convulsamente le mani, stringendo i denti in uno sforzo disperato. E una dolce malinconia la afferrava e le venivano già le lacrime agli occhi, ma tutt'a un tratto si chiedeva: a chi dico queste cose? Dov'è egli? E chi è adesso? E di nuovo tutto ritornava a coprirsi di un dubbio arido e duro, e corrugando nervosamente le sopracciglia, ella si rimetteva a guardare là dove egli stava. E le pareva di nuovo d'esserli lì per penetrare il mistero. Ma nel momento che già pareva le si svelasse l'incomprensibile, il forte stridio della maniglia della porta le colpì l'orecchio dolorosamente. In fretta e senza precauzione, la cameriera Dunyasha entrò nella stanza con un'espressione spaventata e indifferente a lei. «Per favore, venite da papà, presto!» disse Dunyasha con un'espressione animata e diversa dal solito. Una disgrazia a Piotr Ilic, una lettera!» esclamò singhiozzando. Quando Natasha entrò nel salone, il padre usciva in fretta dalla camera della contessa. Il suo viso era aggrottato e molle di lacrime. Evidentemente fuggiva da quella camera per dare libero sfogo ai singhiozzi che lo soffocavano. Vedendo Natasha, agitò disperatamente le braccia e scoppiò dolorosamente in singhiozzi convulsi che scomponevano il suo viso rotondo e bonario. Ad un tratto corse per tutto l'essere di Natasha come una corrente elettrica. Un che di terribilmente doloroso la colpì al cuore. Sentì una sofferenza tremenda. Le parve che qualcosa le si schiantasse dentro e si sentì morire. Ma dopo quella sofferenza sentì sull'istante come una liberazione da quell'impossibilità di vivere che pesava su di lei. Vedendo il padre e udendo dietro alla porta i gridi terribili e selvaggi della madre, immediatamente dimenticò se stessa e il suo dolore. Corse verso il padre, ma egli, con un debole gesto della mano, le accennò la porta della madre. La principessina Maria, pallida e con un tremito nella mascella inferiore, uscì da quella porta e prese Natasha per la mano, dicendole qualcosa. Natasha non la vedeva, non l'udiva. A rapidi passi corse verso la porta, si fermò un momento, come lottando contro se stessa, e poi accorse verso la madre. La contessa era stesa su di una poltrona, in modo strano e incomodo, e batteva la testa contro il muro. Sonia e le cameriere la trattenevano per le braccia. Natasha appoggiò un ginocchio sulla poltrona, si chinò sulla madre, l'abbracciò, la sollevò con una forza insospettata, volse il suo viso verso di sé e si strinse a lei. La contessa strinse la mano della figlia, chiuse gli occhi e si calmò un momento. Natasha la guardava con gli occhi pieni di lacrime e nel suo viso era soltanto l'implorazione del perdono e dell'amore. «Amica mia, mammina», ripeteva, adoperando tutte le forze del suo amore per sollevare la madre di una parte del dolore che la accasciava e prenderla per sé. E di nuovo, in quella lotta impotente contro la realtà, la madre, rifiutando di credere alla possibilità di vivere mentre era morto il suo amato ragazzo, fiorente di vita, si rifugiava fuori dalla realtà, nel mondo della follia. Natasha non si ricordava in seguito come fosse passato quel giorno, quella notte, il giorno seguente e la notte seguente. Non dormì e non si scostò dalla madre. L'amore di Natasha, ostinato, paziente, che non voleva spiegare o confortare, ma che era un richiamo alla vita, circondava la madre ad ogni istante, come se venisse da ogni lato. La terza notte la contessa si calmò per qualche minuto e Natasha chiuse gli occhi, appoggiando il capo sul bracciolo della poltrona. Il letto scricchiolò. Natasha aprì gli occhi. La contessa era seduta sul letto e parlava sommessamente. «Come son contenta che sei venuto. Sei stanco. Vuoi il tè?» Natasha le si avvicinò. «Sei più bello e più grande», continuò la contessa, prendendo la figlia per la mano. «Mammina, che dite? Natasha, non c'è. Non c'è più». E abbracciata la figlia, per la prima volta la contessa si mise a piangere. Per 20 giorni, senza mai uscire, Natasha stette accanto alla madre. Dormì su una poltrona nella sua camera, la faceva mangiare e bere e le parlava di continuo, perché soltanto la sua voce tenera e carezzevole calmava la contessa. La ferita morale della madre non poteva risanarsi. La morte di Petia le aveva strappato metà della vita. Dopo un mese da che era giunta la notizia che l'aveva trovata una fresca e robusta donna di 50 anni, ella uscì dalla sua camera una vecchia mezzo morta, che non prendeva più nessuna parte alla vita. Ma quella stessa ferita che aveva quasi ucciso la contessa, quella nuova ferita, richiamò alla vita Natasha. Ella credeva che la sua vita fosse finita, ma tutt'a un tratto l'amore per sua madre le mostrò che l'essenza della sua vita, l'amore, era ancora viva in lei. L'amore si era risvegliato, e con l'amore la vita. Gli ultimi giorni del principe Andrei avevano legata Natasha alla principessina Maria. La nuova sventura le avvicinò ancora di più. La principessina Maria rimandò la sua partenza e negli ultimi 20 giorni prese cura di Natascia come di una bimba ammalata. Fra la principessina Maria e Natascia si stabilì quell'appassionata e tenera amicizia che suole esistere soltanto fra donne. A volte tacevano per ore intere, a volte, stando già a letto, discorrevano fino alla mattina. La principessina Maria raccontava della sua infanzia, di sua madre, di suo padre, dei suoi sogni, e Natascia, che prima rifuggiva con incomprensione tranquilla da quella vita di abnegazione, di sottomissione, dalla poesia dell'abnegazione cristiana, ora comprese un lato della vita che prima le era incomprensibile. Non pensava ad applicare alla propria vita la sottomissione e il sacrificio, perché era abituata a cercare altre gioie, ma capì ed amò in un'altra queste virtù che prima non comprendeva. Anche alla principessina Maria, che ascoltava i racconti dell'infanzia e della prima giovinezza di Natascia, si rivelava un lato della vita che prima le era incomprensibile, la fede nella vita, nelle gioie della vita. Natascia non lo sapeva, ma sotto lo strato di terriccio che aveva coperto la sua anima e le sembrava impenetrabile, già germinavano sottili, teneri, giovani fili d'erba che dovevano mettere radici e coprire di rampolli vitali il dolore che l'aveva accasciata, in modo da renderlo ben presto invisibile e inavvertito. La ferita guariva dal di dentro. E intanto prosegue la rovinosa ritirata dei francesi, che Kutuzov cerca di non arrestare in nessun modo, consapevole com'è del fatto che il nemico sia ormai vinto. In effetti le truppe francesi si distruggevano da sé in modo costante e progressivo. E Kutuzov capiva anche che il suo tempo era finito, che la sua missione era ormai compiuta. Il 29 novembre Kutuzov entrò in Vilna, nella sua buona Vilna, come diceva. Due volte durante la sua carriera militare Kutuzov era stato a Vilna come governatore. Nella ricca Vilna, rimasta intatta, Kutuzov, oltre alle comodità della vita di cui era privo da tanto tempo, trovò vecchi amici e vecchi ricordi. E togliendosi ad un tratto da tutti i fastidi della guerra e degli affari di Stato, si immerse in una vita tranquilla e metodica, per quanto glielo consentivano le passioni che ribollivano intorno a lui, come se tutto ciò che ora accadeva e stava per accadere nel mondo della storia non lo toccasse minimamente. Kutuzov, come dicevano le persone che lo circondavano, andò molto giù e si depresse fisicamente in quel periodo. L'imperatore, partito da Pietroburgo il 7 dicembre col suo seguito, giunse a Vilna l'11 dicembre e con le sue slitte da viaggio si recò direttamente al castello. Kutuzov si era messo il suo cappello per largo, aveva preso i guanti in mano e, scendendo di fianco con fatica gli scalini, si unì agli altri e ricevette il rapporto preparato per darlo all'imperatore. L'imperatore, con un rapido sguardo, esaminò Kutuzov da capo a piedi. Per un attimo aggrottò le sopracciglia, ma subito, dominandosi, gli si avvicinò e abbracciò il vecchio generale. Kutuzov diede in un singhiozzo. L'imperatore gli espresse il suo disappunto per la lentezza dell'inseguimento, per gli errori di Krasnoje e della Berezina, e gli espose le sue vedute sulla futura campagna all'estero. Kutuzov non obiettò né osservò nulla. La stessa espressione sottomessa e vuota con la quale 7 anni prima aveva ricevuto gli ordini dell'imperatore sul campo di Austerlitz stava ora sul suo volto. Quando uscì dal gabinetto e a testa bassa si mise ad attraversare la sala con la sua andatura pesante e dondolante, una voce lo fermò. «Altezza Serenissima», disse qualcuno. Kutuzov alzò il capo e guardò a lungo negli occhi il conte Tolstoi, che stava davanti a lui con un vassoio d'argento sul quale era un piccolo oggettino. Kutuzov pareva non capire che cosa si volesse da lui. Ad un tratto sembrò rammentarsi. Un sorriso appena percettibile brillò sul suo viso gonfio e, facendo un profondo, rispettoso inchino, egli prese l'oggetto che era sul vassoio. Era l'ordine di San Giorgio di prima classe. Quando la mattina del giorno seguente l'imperatore disse agli ufficiali riuniti presso di lui: «Voi avete salvato non soltanto la Russia, avete salvato l'Europa», tutti capirono subito che la guerra non era finita. Solo Kutuzov non lo voleva capire e diceva apertamente la sua opinione, che una nuova guerra non poteva migliorare la situazione, né accrescere la gloria della Russia. Con tale disposizione d'animo, il maresciallo appariva naturalmente come un ostacolo e un freno per la guerra imminente. Ad evitare urti col vecchio si presentò spontaneamente una via d'uscita che consisteva nel togliere al comandante in capo, senza allarmarlo e senza avvertirlo, quel piedistallo di autorità sul quale si trovava, dandolo invece allo stesso imperatore. Tutti dicevano ad alta voce che il maresciallo era molto indebolito e la sua salute scossa. Ed effettivamente la sua salute era malferma. Kutuzov non capiva che cosa volessero dire l'Europa, l'equilibrio, Napoleone. Non lo poteva capire. Al rappresentante del popolo russo, ora che il nemico era stato distrutto, la Russia liberata e posta al massimo della gloria, al russo come russo non restava più nulla da fare. Al rappresentante della guerra nazionale non restava altro che la morte. Ed egli morì. Di tutto ciò che era accaduto a Pierre dalla sua liberazione non rimaneva in lui quasi nessuna impressione. Aveva veduto il cadavere di Petya Rostov. In quello stesso giorno aveva appreso che il principe Andrei era vissuto ancora più di un mese dopo la battaglia di Borodino e che era morto poco innanzi, a Yaroslav, nella casa dei Rostov. In quello stesso giorno Denisov, che aveva comunicato questa notizia a Pierre, fra gli altri discorsi accennò alla morte di Hélène, supponendo che Pierre già da un pezzo ne fosse informato. Tutto ciò allora parve soltanto strano a Pierre. Sentiva di non poter approfondire il significato di tutte queste notizie. Gli premeva soltanto di andarsene al più presto possibile da quei luoghi dove gli uomini si uccidevano l'un l'altro, verso qualche tranquillo rifugio, e là riprendersi, riposarsi e riflettere su tutte le cose nuove e strane che aveva apprese in quel tempo. Ma appena giunto ad Oriol si era ammalato. Nel tempo della sua convalescenza, Pierre a poco capì il significato delle notizie che aveva apprese uscendo di prigionia. La morte del principe Andrei, la morte della moglie, la disfatta dei francesi. Un senso di libertà colmava l'anima di Pierre. Egli si meravigliava che quella libertà interiore fosse ora accompagnata dalla libertà esteriore, come da un superfluo, da un lusso. Era solo, in una città che gli era estranea, senza conoscenze. Nessuno pretendeva niente da lui, non lo mandavano in nessun posto, aveva tutto ciò che desiderava. Il pensiero di sua moglie, che prima lo aveva sempre tormentato, ora non esisteva più, dato che anche lei non c'era più. Quello che prima lo tormentava tanto, quello che aveva cercato continuamente, lo scopo della vita, ora non esisteva più per lui. Egli non poteva avere uno scopo, perché ora aveva la fede, non la fede in certe regole, parole o pensieri, ma la fede in un Dio vivo, di cui si ha la sensazione continua. Prima egli lo cercava negli scopi che si proponeva. Questa ricerca di uno scopo non era che la ricerca di Dio. E ad un tratto, durante la prigionia, aveva appreso per mezzo non di parole né di ragionamenti, ma di un sentimento immediato, ciò che la sua balia gli aveva detto tanto tempo prima, che Dio è qui, vicino, dappertutto. Provava il sentimento dell'uomo che ha trovato sotto i piedi ciò che cercava, mentre aguzzava la vista per scoprirlo lontano da sé. Prima Pierre si armava di un canocchiale spirituale e guardava lontano, là dove le piccole cose della vita, nascondendosi nella nebbia della lontananza, gli apparivano grandi, infinite, soltanto perché non le vedeva chiaramente. Così gli erano apparse la vita europea, la politica, la massoneria, la filosofia, la filantropia. Ora invece aveva imparato a vedere in tutto il lato grande, infinito ed eterno, e naturalmente per vederlo, per godere della sua contemplazione, abbandonava il cannocchiale e contemplava gioiosamente intorno a sé la vita eternamente mutevole, eternamente grande, incomprensibile, infinita. E quanto più guardava vicino, tanto più era tranquillo e felice. La terribile domanda che prima faceva crollare tutte le costruzioni del suo pensiero, perché? Ora non esisteva più per lui. Ora a questa domanda perché, nell'anima sua, era sempre pronta alla semplice risposta. Perché c'è un Dio. Quel Dio senza il volere del quale non cade un capello dal capo di un uomo. Anche nelle cose pratiche, Pierre sentiva ora inaspettatamente di avere in sé un centro di gravità che non aveva prima. Egli era indifferente come allora alle faccende di denaro, ma ora sapeva in modo preciso che cosa si dovesse e che cosa non si dovesse fare. La prima applicazione di questo nuovo giudizio fu la domanda di un colonnello francese prigioniero che venne da lui e, dopo molte chiacchiere sulle proprie gesta, alla fine quasi pretese che Pierre gli desse 4.000 franchi da mandare a sua moglie e ai suoi figli. Pierre, senza il minimo sforzo, glieli rifiutò, meravigliandosi poi come fosse semplice e facile quello che prima gli sembrava di una insormontabile difficoltà. Alla fine di gennaio Pierre giunse a Mosca e si stabilì in un'ala della casa rimasta intatta. Tutti celebravano la vittoria, tutto ferveva di vita nella capitale devastata che si rianimava. Dei Rostov aveva sentito dire che erano a Kostroma e il pensiero di Natascia gli veniva di rado. E se talvolta gli veniva, era soltanto come un piacevole ricordo di un lontano passato. Si sentiva non soltanto libero da ogni legame sociale, ma anche da quel sentimento. Due giorni dopo il suo arrivo a Mosca, seppe dai Drubetskoi che la principessina Maria era in città. La morte, le sofferenze, gli ultimi giorni del principe Andrei spesso occupavano il pensiero di Pierre e ora tornarono alla sua mente con una vivacità nuova. Andò da lei quella sera stessa. E Pierre trova la principessina Maria in compagnia di Natascia, però lui in un primo tempo la scambia per una dama di compagnia qualsiasi, tanto questa è cambiata, dimagrita, impallidita. La rivelazione lo colpisce profondamente e si rende conto immediatamente di amarla ancora. Ma l'incontro è importante anche per la donna, che dalla morte del principe Andrei non era mai riuscita a toccare quell'argomento e che ora, per la prima volta con Pierre, riesce a parlarne e a liberarsi. Quando Pierre fu uscito, «Sai, Marie», disse improvvisamente Natascia, con un sorriso malizioso che da un pezzo la principessina Maria non le aveva visto sul viso, «è diventato pulito, liscio, fresco, come se uscisse dal bagno, capisci? Moralmente da un bagno, no?» «Sì», disse la principessina Maria, «ha guadagnato molto, e quel soprabito corto, e quei capelli tagliati, proprio come se uscisse dal bagno». «Capisco come il principe Andrei a nessuno volesse così bene come a lui», disse la principessina Maria. «Sì, ed è molto diverso da lui. Si dice che gli uomini sono amici quando sono del tutto diversi. Deve essere vero». E quel sorriso malizioso le rimase a lungo sul viso, come dimenticato. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.